è un virgolettato, quindi è accreditato al Presidente del Consiglio. Un attimo solo. Eccolo. Comitato Lassini, buonasera. Comitato Lassini, buonasera. Stavo cercando il signor Lassini, esiste anche un Comitato Lassini? No, in questo momento è impegnato con delle persone, con chi parlo? Sono Cruciani. Buonasera. Buonasera, come sta? Molto bene, grazie. Che bella voce, signora. Prego? Che no. Bella voce, complimenti. Ah, la ringrazio per avermi dato questo, no, un complimento per me. No, ma me lo dicono in tanti, devo dire. Bella voce, cara, è molto... No, bella, ma non bella... è vero, mi sto gasando. No, ma una voce bella. No, ma sia serena, ma è giovane lei, la voce bella, giovane, fresca, brava, fresca. Sento, comitato Lassini, bella gente, voce fresca, bene. Posso permettermi di farla richiamare, se mi lascia un recapito telefonico? Sì, certo, per carità. Generalmente, cara, funziona che quando uno dice posso farla richiamare, io aspetto una chiamata dalla Rai per fare un programma da 3 anni, quindi sa come la richiamiamo noi, no chiamiamo noi, ma noi non siamo mica la Rai, No, per carità, non siete la Rai, no, perché nemmeno il tribunale come... nemmeno il tribunale di Milano soprattutto. No, ma sa come si usa in genere, dice sì dottore, la facciamo richiamare noi, non si preoccupi. No, assolutamente, ci mancherebbe altro. No, senta, no, in questo momento... si dà il caso, signora, molto gentile, molto, sì. Molto carina, non lo so, ma insomma con la voce molto bella. Magari se abbiamo modo di conoscerci, lo, non so, magari lo potrà dire. Sì, io beh, infatti, magari. Però. Insomma, però. Chi può dirlo? Boh. No, chi può dirlo, certo, assolutamente. Senta, no, si dà il caso che il signor Lassini, sì. Per tutta la giornata aveva promesso di essere nostro ospite qui a Radio 24. Ah, dopodiché sì. Ci ha dato la cosiddetta sola, non so se lei conosce questo termine romano, io sono romano ma trapiantato a Milano ormai da tanti anni. Opacco. Opacco a seconda degli ambienti. Per cui noi lo volevamo sentire al telefono rapidamente per farci confermare il fatto che lui continua, perché la candidatura resta, no? Mi sembra di capire. Dai, comitato Lassini non si è sciolto. Assolutamente no, che io sappia, assolutamente no. Cioè, resta la... nulla, assolutamente. Non è cambiato niente, no, non è quindi cambiato. Comitato Lassini 2 punti, noi siamo ancora in lista, benissimo. Noi perfetto. Siamo ancora in lista, vabbè. Però... Ma io sono in onda. Ma è lì? Chiedo scusa. No, per carità, ecco. Ma il signor Lassini è lì vicino a lei? No, non è qua, è impegnato con delle persone. È impegnato con delle persone. No, vabbè, lui è fuori. Quando si libera, dica che ha chiamato Cruciani, perché noi continuiamo, noi tra 20 minuti richiamiamo, cioè non è... Ok, sì. Lui ha un suo recapito telefonico? Sì, dovrebbe avere il nostro recapito telefonico, lascio. Sì. Me lo lascio. Se vuole glielo lascio io, 335? Sì? Sì. Beh, poi magari siccome siamo... il resto del numero magari se lo fa dare dalla segreteria del direttorissimo Cruciani. No, ecco, appunto, cioè il numero. Vuole lasciarci lei il suo cellulare, signorina cara? E quando le lascio il mio, che cosa fa? Beh, intanto un passo in più l'abbiamo fatto, Vabbè, comunque. Vuole il mio cellulare? No, non esageri. Vuole il mio che Radio 24 fosse Tele 24, magari sono telegenica. Hai visto mai? Questo è il suo comitato. Ho solo la voce, però per una radio la voce buona può anche andare bene. Capito? No, veramente, adesso a parte gli scherzi. A parte gli scherzi, lei già lavora per un grande statista, per cui insomma. Un grande statista. Vabbè, fa l'ironico il signor Parenzo, è un po' ironico, sa, capito, questa storia dei manifesti, no? Certo, è stata pesante questa storia dei manifesti, no? A me non deve dire nulla. No. E chi le dice qualcosa, infatti? No, per carità, infatti. No, siccome potrebbe cadere la candidatura, allora quello è... capito, vabbè, comunque. No, non c'è problema, certo. Vabbè, allora dica al signor Lassini, noi lo aspettiamo sempre con grande trepidazione. Va bene. Però almeno per dirci una frase sola. Una frase. Va bene. Non farò alcun passo indietro. Io ho solo un 335, farò contattare un 335 nella speranza che Radio 24... No, ma lui ce l'ha. Lui ha tutto. Va bene. Grazie signorina. Buona serata a voi. Grazie. Quando ci risentiamo? Ma che ne so, magari tra 20 minuti, chi può dirlo? D'accordo. Pubblicità. Grazie. Pubblicità, cara. Buonasera. Pubblicità.